vista. I mille aspetti dell'attualità. 13 minuti dopo le 8 ed è il 7 agosto, ancora buongiorno da Irene Zerbini. Parleremo tra poco alle 8 e mezza della vita appesa a un'attesa che hanno detto loro sembra non finire mai. Di cosa stiamo parlando? Di 130 coppie italiane che attendono di poter finalmente abbracciare i loro figli, che hanno adottato regolarmente tutto, tutte le procedure sono più che regolari nella Repubblica Democratica del Congo, e soprattutto dall'altra parte ci sono bambini che aspettano di vedere realizzato il loro diritto ad avere una famiglia. Eppure c'è un grande problema, e nonostante l'Italia sia da sempre considerato un paese virtuoso nel settore delle adozioni internazionali, non viene trattato in maniera adeguata e viene messo sulla stessa linea dalle autorità congolesi con quei paesi che avrebbero commesso delle irregolarità. Si sono infatti verificate delle irregolarità e a pagare adesso sono questi bambini e queste famiglie, che ieri hanno deciso di fare una conferenza stampa e di portare alla luce, a conoscenza dell'opinione pubblica, quello che stanno vivendo. Perché senza strumentalizzazioni politiche noi abbiamo bisogno di sostegno, abbiamo bisogno di assistenza, hanno detto, abbiamo bisogno di una risposta concreta, perché nelle altre nazioni gli altri genitori stranieri coinvolti vengono informati con puntualità e delle trattative che sono in corso e di quali sono le evoluzioni di questi contatti. Noi invece siamo costretti a vivere in un silenzio che è quantomeno avvilente, hanno denunciato. Questo ci farà parlare di crollo delle adozioni in Italia. Sembra sia venuta meno la fiducia delle famiglie sulla possibilità di adottare. Cercheremo di fotografare la situazione con i nostri ospiti. E ancora si parlerà di un modello relativo all'immigrazione, attenzione, si parla di immigrazione, è un modello tutto italiano che ora gli altri paesi europei stanno cercando di copiare, perché solo in Olanda esiste qualcosa di analogo. E come si realizza? Che cos'è questo SPRAR? Questo è l'acronimo del modello, significa Sistema di Protezione e Accoglienza dei Rifugiati e Richiedenti Asilo. E in pratica, grazie a questo è possibile dare un tetto a decine di migliaia di migranti che a loro volta costituiscono una risorsa per i posti che li accolgono. Infatti stanno, non se ne parla mai però, chissà perché, rivitalizzando i borghi che altrimenti erano destinati allo spopolamento. Un problema molto diffuso in Italia, ci sono microcomuni di 500, 600, 900, 1000 persone che stanno subendo un'emigrazione che praticamente li porterà alla chiusura, alla cancellazione totale dalle cartine, perché più se ne vanno, più la popolazione che rimane e risulta appartenere al segmento anziano, meno scuole si riescono ad aprire, meno servizi ci sono, non sono sostenibili i costi del trasporto e così via. Ebbene, di questo programma stanno beneficiando 18.765 persone in Italia, sono 456 progetti attivi in tutta la penisola, e l'integrazione sta funzionando in questi casi. Sono gruppi di famiglie, 5, 6, 8, 10 famiglie inserite in questi piccoli comuni, con beneficio, sembra, fino a questo punto, di entrambe le parti. Ma è il tema che affronteremo dalle 9 in poi. Voi cosa ne pensate? Potrebbe funzionare? Ditecelo telefonando, prenotando le vostre telefonate all'800 24 00 24, oppure con i messaggi SMS 349 238 6666. Questo è il numero da comporre, 349 238 6666. Noi ora andiamo a conoscere un corrispondente che ci osserva da fuori, e questo nostro ospite di questa mattina ha una specializzazione, cioè si occupa di cose che hanno a che fare con la vita di tutti i giorni, naturalmente, ma che non avevamo mai incontrato in questa nostra rubrica. Visti da fuori. E quindi non ci resta che salutarti, carissimo Robert Galbraith. Welcome. Buongiorno. Buongiorno e benvenuto. È corrispondente in Italia per APM Health Europe, cioè Robert Galbraith è un corrispondente che in Italia si occupa esclusivamente di sanità. Perché, Robert? Perché è più un caso che ho scelto. Sono sempre stato, diciamo, un giornalista di nicchia, nel senso che ho sempre cercato campi dove potevo specializzare, perché ovviamente trovavo più lavoro più facilmente. E quindi, diciamo, nel 2006 c'era questa possibilità di lavorare per questa agenzia, stavano cercando una corrispondente e io non sapevo nulla, ma non nulla, però come tutti gli altri conoscevo il sistema sanitario in Italia. E loro volevano un corrispondente che seguiva tutta la parte della farmaceutica e il servizio farmaceutico dentro il servizio sanitario in Italia. E per questo ho deciso di approfondire e specializzare in questo campo. E prova ad allontanare forse la bocca dal telefonino, perché sentiamo una sorta di fruscio, una sorta di così disturbo, eppure non ti trovi lontano perché ti trovi a Firenze. Questo è meglio? Sì, vai già molto meglio. Ti trovi a Firenze, quindi non ti chiederò che ore sono ma a Firenze. Che ho detto, devo ripetere. No, abbiamo capito benissimo, Robert. Tu sei di origine scozzese, ti occupavi di finanza e hai deciso a un certo punto, anche perché intercettava un po' una richiesta, di puntare la tua attenzione soprattutto su sanità e sistema farmacologico. Secondo te, dal tuo punto di vista, visto che scrivi solo di questo, come sta evolvendo la sanità italiana? Ma come tutti i sistemi è molto difficoltà, direi, perché è soprattutto un problema di trovare le risorse per farle andare avanti. Ci sono due problemi, uno è la demografica, la popolazione invecchia e quindi ci sono più richieste, molto più richieste dei servizi sanitari, e dall'altra parte i costi della tecnologia che si avanza a un passo molto molto veloce, quindi è molto difficile tenere il passo con tutti questi problemi. E quindi si è visto in questi giorni, hanno fatto altri tagli perché trovare le risorse per solo per stare dove siamo ora è difficile. Quindi come si fa domani o dopodomani, con tutti gli altri costi che ci saranno, a mandare avanti il servizio universale e gratis, diciamo. Il servizio universale a cui siamo abituati in Italia, che ha anche dei punti molto diversi, segnalavi tu nelle tue cronache, da quelle che succede in Gran Bretagna, poi ci sono anche dei punti di contatto. Ma io voglio chiederti, se tu potessi importare una buona pratica dalla Gran Bretagna che potesse dare così una boccata d'ossigeno, vitalità al sistema sanitario in Italia, cos'è la prima cosa che copieresti? Mi metti molto in difficoltà, perché io preferisco portare qualcosa dell'Italia in Gran Bretagna. Ci fa piacere. Cosa? Ma proprio questa idea principale che è al fondo del sistema sanitario, che tutti sono d'accordo, è apolitica questa idea, che dovrebbe essere universale. In Inghilterra non è più così, non è visto. Da tanti anni ormai sono entrati i servizi delle aziende private e c'è competizione, c'è un mercato interno e quindi è tutto un altro punto di vista in Inghilterra. Direi, se veramente devo scegliere qualcosa molto personale, direi che è proprio l'idea di fare un servizio quando uno ha un contatto con un'infermiera. Io sto parlando della Scozia perché conosco meglio attraverso. Chiaro. Che fatte da mia mamma. Direi che lì c'è un'attenzione al contatto con il paziente che forse è migliore proprio dal punto di vista di, non so come dire, gentilezza o educazione o è forse solo culturale, che io sono abituato a quel tipo di cose, un italiano non trova nessun problema con quello. Ma ma direi è l'unica cosa che trovo. Non per dire che il servizio qui, che sono non sono gentili, non sono educati, è solo un'idea che uno ha per come trattano. E forse, come ho detto, è probabilmente solo personale, vedere la tua mamma con una persona che si è molto attenta ai suoi bisogni, quindi ti fa una certa impressione. Ti conforta, naturalmente. E di cosa ti sei occupato ultimamente per la tua agenzia? Di cosa hai scritto? Ho scritto di questo emendamento. C'è stata una legge che è stata approvata questa settimana che fa un taglio di 2,35 miliardi di euro dal fondo sanitario. Sì. Più o meno sono le regioni che hanno rinunciato a questi soldi, e questo vuol dire che ovviamente ci devono essere risparmi per questa cifra. E quello che mi ha colpito sono due cose. Innanzitutto l'idea che si deve tagliare in questo modo volontariamente. Questa è una cosa che è stata scelta dalle regioni, non dovevano rinunciare a questi soldi. E l'altra cosa che mi ha colpito è il modo in cui è stato approvato, perché innanzitutto era un emendamento alla parte sanitaria che è stata attaccata a una legge diversa che non c'entrava con quella che dovevano fare. Poi il governo ha deciso, per farla passare, perché volevano farla passare a tutti i costi, dovevano mettere la fiducia. E quindi tu hai messo in evidenza, nessuna possibilità di dibattito, dici, no. Hai messo in evidenza questi due aspetti e addirittura ti sei augurato, da osservatore britannico che apprezza il sistema sanitario italiano, che le regioni si fossero opposte a questo taglio in maniera un po' più energica. Ma no, loro sono stati messi in un angolo, non avevano scelta, perché il governo ha detto noi dobbiamo tagliare 4 miliardi dalla legge di stabilità, quindi dovevano trovare comunque 4 miliardi di risparmi o di tagli, non so quale differenza, e per andare a incontrare questo taglio di 4 miliardi hanno scelto di rinunciare a una parte del fondo sanitario, che è molto singolare. Se è una scelta giusta non so dire, perché per loro ovviamente avranno problemi di trovare tagli di 4 miliardi, quindi è un po' un messaggio al governo di dire questo. E questo, temi, potrebbe portare alla dispersione del grande patrimonio della sanità pubblica italiana. C'è anche il problema degli esami che lo Stato non pagherà più per esami, sì. Intendo esami diagnostici, ovviamente. Sì. E questo è un altro tema che hai affrontato? Sì, è un altro tema che hai affrontato nelle tue corrispondenze? Sì. Per loro ormai tutte le prestazioni saranno, se non sono necessarie, nel senso che uno non ha una patologia che richiede quel tipo di esame, sarà a pagamento da ora in poi. E questo, voglio dire, se uno va al medico con un dubbio e invece non c'è una ragione per andare, allora deve scegliere se fare l'esame o no, perché non necessariamente sarà rimborsato la visita o l'esame. E purtroppo a volte che il problema della prevenzione è proprio quello, cioè prima che si renda assolutamente necessario, indispensabile una terapia, bisogna anche capire dalla diagnosi e avvalendosi anche di strumenti come gli esami se c'è qualcosa che non va, se c'è qualcosa che si sta sviluppando. Abbiamo trattato questo tema proprio qui a Spunti di Vista e sono stati tanti medici che ci hanno segnalato l'impossibilità, la preoccupazione, anche esperienze, testimonianze in cui ci dicevano alcune visite, alcuni esami che abbiamo prescritto e sembravano così solo di controllo, quelli che un giorno dovranno sostenere i cittadini di tasca propria, e poi hanno rivelato l'esistenza di patologie gravi come cancro, leucemia. Abbiamo avuto delle testimonianze proprio qui, e quindi questo ti preoccupa? per il futuro della sanità italiana. Sì, ma anche il fatto che vogliono fare un medico che fa una prescrizione inappropriata dovrà pagare se è considerata inappropriata. Ma come si fa a giudicare qual è una prescrizione inappropriata? I medici saranno... Non può vivere con questa idea: se faccio una cosa che non è da visto da fuori, non è giusto, io devo pagare. Quindi si pensa due volte prima di prescrivere. Certo, diventerà un medico ancora più condizionato, ancora più insicuro, e questo tu dici a scapito della salute. Grazie per questa attenzione che poni anche al nostro sistema sanitario, perché penso che le osservazioni poi di chi è abituato a un sistema completamente diverso siano veramente utili. Tu pensi di tornare a vivere in Scozia un giorno o hai deciso che rimarrai qui con noi? Ma io comunque torno in Scozia molto spesso, quindi se il mio ideale sarebbe sempre di andare avanti, cioè la mia famiglia italiana, sarebbe di poter stare in tutte e due le cose, non avere una... È solo che ho visto dal punto di vista burocratico, no, questo non è possibile, perché io ho cercato in tutti i modi di dire che sono residente in tutte e due le porti, ma nessuno vuole sapere. Nessuno può accettare una realtà del genere. Robert Galbraith, noi speriamo che tu ancora a lungo continui a osservare con questo acume la realtà sanitaria italiana. Corrispondente in Italia per APM Health Europe, e l'abbiamo sentito le sue osservazioni, le sue preoccupazioni. Gli facciamo un regalo, questi sono i Franz Ferdinand, tutta per te Robert, e naturalmente grazie per essere stato con noi a Visti da Fuori. Dopo le 8 e ci fermeremo ad ascoltarli, sono bravissimi Franz Ferdinand. Abbiamo fatto un omaggio al nostro amico che fa il corrispondente per un'agenzia della Gran Bretagna. Lui è di origine scozzese, anche se non riesce ad avere la doppia cittadinanza italiana e inglese per tutta una questione biografica che ci ha raccontato, molto complicata, ma che dà proprio la cifra di quanto le persone ormai oggi siano intrecciate a diversi paesi del mondo, siano sempre più multiculturali. Noi parleremo alle 9 di un modello d'accoglienza che avete sentito, vi ho anticipato, sta funzionando molto bene e l'Europa addirittura vuole copiarci. Prima però vogliamo parlare di adozioni, perché è molto difficile spiegare a un bambino di 5 anni perché non può raggiungere la sua famiglia adottiva. È un tema che affronteremo tra poco. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Innanzitutto buongiorno ad Antonella Prete, benvenuta, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Antonella Prete è la mamma di due bambini congolesi ed è anche l'avvocato che rappresenta le famiglie coinvolte in questo blocco. Buongiorno anche al papà di Jordan, Michele Albano, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. E quindi abbiamo due genitori per raccontare la questione di questo blocco a cui si è dato risalto ieri sui giornali. Avete chiesto soprattutto più attenzione da parte del governo italiano. Ma Antonella Prete, lei che è coinvolta, diciamo così, in doppia veste di mamma e di rappresentante legale, faccio una piccola precisazione, sì. Mi scusi se la interrompo. Certo. Sono avvocato di professione, ma non sono qui in veste di avvocato, ma esclusivamente in veste di mamma adottiva. Il fatto che svolga la professione di avvocato in questo momento, diciamo così, è incidentale. Ecco, questo. Non abbiamo intrapreso nessuna azione, quindi nessuna azione legale. Ha fatto bene. È il portavoce. Ha fatto bene a precisarlo, perché per noi è ben più importante il suo ruolo di genitore. Assolutamente. Ci racconti cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Succede che la Repubblica Democratica del Congo il 25 settembre 2013 ha indetto un blocco sulle adozioni internazionali, che ha coinvolto anche l'Italia. Il blocco, una moratoria fissata originariamente della durata di un anno e quindi sarebbe dovuta terminare il 25 settembre 2014, è tuttora operativo. Questo blocco, per quanto ci è dato sapere, è stato determinato da irregolarità riscontrate nell'iter adottivo portato avanti però da altri paesi, prevalentemente paesi degli Stati Uniti d'America, quindi non certamente procedure irregolari facenti capo all'Italia, che è sempre stata riconosciuta uno dei paesi virtuosi quanto a procedure adottive, proprio perché il nostro iter legislativo, i controlli delle nostre istituzioni sono abbastanza puntuali e precisi. Voi vi siete trovati in mezzo a questa sorta di contenzioso che non ha nulla a che vedere con l'Italia, ma di fatto penalizza le famiglie e i bambini. Quante sono le famiglie e quanti sono i bambini coinvolti in questo blocco? I numeri delle famiglie italiane sono pressappoco 150 bambini, più o meno 130 famiglie. Non abbiamo numeri precisi perché anche su questo l'informazione è difetta, non ci conosciamo tutti, non abbiamo numeri precisi. Indicativamente dovremmo essere 130 famiglie italiane. I numeri a livello internazionale sono ben maggiori. Chiaro, ma non abbiamo dati precisi. Italia più o meno 130 famiglie. Più o meno 130 famiglie, sì. E ieri avete deciso di far sentire la vostra voce, di fare una richiesta. Sì, abbiamo deciso di fare con coraggio, grande timore, ma anche coraggio, abbiamo ritenuto di fare una conferenza stampa. Una conferenza stampa in rappresentanza di alcune delle famiglie coinvolte in questo blocco. Noi parliamo, ci abbiamo messo la faccia e i nomi, abbiamo parlato a nome nostro di tutti, io sono una portavoce, dietro di me ci sono tutte le 21 famiglie che hanno firmato partecipando a questa conferenza stampa, nella quale sostanzialmente chiediamo di essere ascoltati, chiediamo informazioni precise e trasparenti alle nostre istituzioni, che ormai da 2 anni riteniamo ci abbiano abbandonato. Noi non abbiamo idea di quello che stia succedendo. In 2 anni abbiamo avuto pochissimi contatti con la CAI, che è la Commissione Adozioni Internazionali, che regolamenta per legge tutte le adozioni in Italia. Abbiamo avuto pochissimi contatti attraverso mail, un solo incontro che si è svolto ormai nel lontano novembre 2014. 6 mail in 22 mesi, quasi 23 perché siamo in agosto, in cui sostanzialmente ci è stato sempre e soltanto chiesto di avere fiducia, rimanere in silenzio e sostanzialmente di sperare, perché questa è l'unica cosa che possiamo fare. Interrompo un attimo, Antonella, perché c'è un altro genitore che ci sta telefonando all'800 24 00 24, coinvolto in questa situazione. Buongiorno, benvenuta in trasmissione, Laura. Buongiorno. Cosa vuole sottolineare? Ma io sono un'altra mamma in attesa e non ho partecipato a questa conferenza stampa, ma sostanzialmente condivido la posizione di queste famiglie che hanno partecipato l'altro ieri. E volevo quindi sottolineare e rinforzare questa posizione. Il punto principale è che noi rispettiamo le posizioni della Repubblica Democratica del Congo, che è un paese sovrano, ha diritto di attuare questa moratoria se deve controllare procedure che non sono state effettuate correttamente, e sappiamo che lo sblocco dipende esclusivamente da loro. Questo però non toglie che noi dobbiamo avere informazioni dopo così tanto tempo, soprattutto dal nostro governo, quindi dalla CAI, che è emanato dalla Presidenza del Consiglio. Noi abbiamo avuto delle notizie molto scarse, pressoché nulle, come è già stato detto dall'avvocato Prete. E intanto i bambini crescono. E i bambini crescono in difficoltà, perché il paese è in estrema difficoltà. e alcuni di noi peraltro non hanno informazioni per motivi che adesso sono difficili e lunghi da spiegare, non hanno notizie da molti mesi perché non tutti sono seguiti da un ente direttamente. E noi non abbiamo notizie, ed è questo che chiediamo fortemente, notizie sullo stato dell'arte. Noi non sappiamo in quale posizione si trova l'Italia in questo momento, se i nostri documenti sono stati verificati, non sono stati verificati. Cioè non sapete nemmeno questo? Noi non sappiamo se i nostri, degli italiani, sono chiaro. Stati, sappiamo che sono stati depositati. Sì, sì. Beh, mi sembra ma insomma che ci siano delle cosa sta succedendo. Delle carenze particolarmente gravi, visto che ci sono coinvolti i bambini che aspettano in un orfanotrofio di avere notizie, a cui era stato detto arriverai, sono stati in questi anni preparati, arriverai alla tua famiglia italiana, cioè prima di tutto, con tutto il rispetto, è ovvio, per il diritto alle famiglie a adottare, e il punto di vista del bambino che preoccupa. Michele Albano, lei che come rimane in contatto con suo figlio? Io resto in contatto con qualche letterina, collegamenti Skype, saltuari, altri genitori non hanno nessun tipo di contatto. Io posso assicurarvi che non sono in una condizione peggiore della mia, perché comunque è molto penoso questo tipo di contatto, vedere il bambino che non si sa se crede più di avere una famiglia, se veramente questa mamma e questo papà arriveranno, lo andranno a prendere, potranno dargli una casa. È una situazione molto angosciante. Vorrei aggiungere una precisazione a quello che diceva l'ascoltatrice, l'altra mamma che è intervenuta adesso, Laura mi sembra. Nel senso che è vero che è una situazione che dipende soltanto dalla la decisione dipende dalla Repubblica Democratica del Congo, ma in tutti i rapporti tra stati è così, nel senso se l'Italia decide avrà bisogno di far passare per esempio un gasdotto nel territorio di un altro stato, ovviamente dipende da quell'altro stato, ma ciò significa che qualcuno insieme con qualcun altro cerca una sintesi e la soluzione a questa cosa, non qualcuno contro qualcun altro, qualcuno insieme con qualcun altro. Sì, non mi sembra ci sia in questo caso una posizione noi oggi non sappiamo neanche di criminalizzazione. Se c'è un corpo diplomatico al lavoro per noi, non sappiamo se si sta cercando la sintesi con l'altra parte. Da 2 anni questo non lo sappiamo. Sappiamo che c'è stato un lavoro nel caso dei primi 24 bambini che sono arrivati nel maggio 2014, ormai 14 mesi fa, ma da allora non sappiamo nulla se effettivamente lo Stato sta ancora tentando di fare qualcosa per noi. E quindi cosa chiedete in sintesi, Michele? Voi, anche lei ha sottoscritto? Noi chiediamo di conoscere le iniziative in atto, le iniziative intraprese, le risposte che hanno ricevuto sino ad oggi. Troviamo ridicolo porre riservatezza ai diretti interessati che siamo noi. Perché vi è stato risposto così, vi è stato detto che c'è un problema di riservatezza. Sì. Posso capire riservatezza, non può essere di dominio pubblico una trattativa diplomatica, ove mai esista una trattativa diplomatica, perché non sappiamo neanche questo, ma opporlo al diretto interessato è per me ridicolo. E poi, come ha sottolineato, particolarmente penoso. Antonella Prete, cosa vi aspettate succeda ora nei prossimi giorni? Ieri la conferenza stampa alla Camera dei Deputati ha già avuto come portavoce delle famiglie e dei feedback, delle reazioni, degli impegni? No, impegni no, dei feedback e delle reazioni senz'altro. La prima reazione, quella che ci lascia sinceramente più sconcertati e perplessi, è proprio un comunicato della CAI pubblicato ieri, pubblico perché è pubblicato sul sito della Commissione, in cui ingaggia una sorta di gioco al massacro con noi. Noi non vogliamo fare una manifestazione di forza tra CAI e genitori, pochi e molti che siano. Non capiamo perché la CAI, piuttosto che rispondere a noi e spiegarci qual è la situazione, ritenga opportuno pubblicare un comunicato in cui fa riferimento al numero delle coppie che abbiano partecipato alla conferenza stampa rispetto al numero totale delle coppie che pare diano sostegno alla CAI. Noi ci abbiamo messo la faccia, non sappiamo che la faccia ai nostri nomi, non sappiamo dall'altra parte chi ci sia, non ne abbiamo contezza. Riteniamo però di non dover partecipare a questa questione, a questo gioco di forza. pochi o molti che siano, noi riteniamo che il diritto di ogni genitore sia quello di avere delle informazioni precise. Fosse solo anche un solo genitore. Fosse anche stata un anche una genitore, sola famiglia. Antonella una sola Preta, famiglia. Grazie. Una sola famiglia. Grazie perché una è molto chiaro. Posso aggiungere un altro particolare? Perché assolutamente. È una cosa che sta veramente a cuore. Dica. In questo comunicato, come in tutte, nelle poche mail, ripeto, 6 in 22 mesi che ci sono state inviate dalla CAI, ed è l'unico contatto che abbiamo con la CAI, perché loro ci chiedono di relazionarci con loro, ma noi abbiamo un solo riferimento telefonico, che è quello il numero messo a disposizione dalla CAI, che è inattivo da mesi, quindi noi, anche volendo relazionarci con loro, siamo impossibilitati a farlo. Abbiamo scritto continuamente in questi 2 anni, come potrai immaginare. In queste ultime settimane abbiamo scritto quotidianamente a tutti, sia al Premier Renzi, a tutti, sì, assolutamente, anche al Premier Renzi, a tutti, assolutamente, al Ministro Boschi, a tutti, tutti quelli che potessero in qualche modo darci qualche comunicazione. E per risposta avete avuto 6 mail? 6 email? No, 6 mail le abbiamo avute, no, a queste mail delle ultime settimane non abbiamo avuto risposta. Le 6 mail le abbiamo avuto dilazionate in 22 mesi precedenti, è molto chiaro. Però in queste 6 mail, così come nel comunicato pubblicato ieri dalla CAI, troviamo riferimenti a possibili strumentalizzazioni. Beh, noi lo ribadiamo con forza. Noi non tolleriamo più allusioni più o meno esplicite al nostro essere strumentalizzati. Noi non siamo strumentalizzati da alcuno. Noi siamo genitori, semplicemente genitori, che stiamo cercando di condurre una lotta per i nostri figli, per la nostra famiglia. Non abbiamo dietro di noi nessuno, non c'è nessuna strumentalizzazione. È molto chiaro, visto che nemmeno vi conoscete tutte. Sì, nemmeno ci conosciamo tutti. E quindi sarebbe anche difficile. Queste 22 famiglie che ci siamo incontrate e abbiamo partecipato alla conferenza, sostanzialmente non ci conoscevamo, ci siamo incontrate nella nostra ricerca di trasparenza, nella nostra ricerca di verità. Siamo famiglie che provengono da tutte le parti d'Italia, quindi non intendiamo tollerare oltre queste allusioni alle strumentalizzazioni. Sì, abbiamo capito Antonella questa nota particolarmente stonata. Ci interessa chiaramente che a questa vicenda sia data pubblicità, così che si possa arrivare quanto prima a una risoluzione. Grazie per il suo tempo, alla mamma che avete sentito, Antonella Prete, al padre Michele Albano, all'altro genitore che ci ha chiamato da Roma. Questo mette in evidenza una particolare situazione di difficoltà delle adozioni internazionali. Affronteremo subito dopo anche questo aspetto. Spunti di vista. I 1000 aspetti dell'attualità. Risposte concrete, intanto questo è quello che si chiede, intanto però il problema delle adozioni può essere tradotto anche bruttissimo, perché dietro naturalmente, come avete sentito, ci sono drammi, ci sono famiglie, ci sono bambini, ma può essere tradotto anche in numeri, perché i minori che hanno ottenuto l'autorizzazione a essere adottati in Italia nel 2010 erano 4.130, ebbene ormai nel 2013 siamo arrivati a 2.825. Questo significa che è sempre più difficile adottare. Questi numeri tolgono speranza soprattutto a quei bambini in attesa di una famiglia che li accolga. Pronto, buongiorno anche a un'altra ascoltatrice che sta aspettando in linea, mi scuso per l'attesa. Buongiorno, benvenuta. Pronto? Pronto? Buongiorno, dica. Buongiorno. Ah, dunque io non vorrei affrontare la questione del Congo perché non la conosco direttamente, quindi più che dare la mia solidarietà a queste persone e a quei bambini che stanno molto soffrendo non posso dire. Io ho adottato tantissimi anni fa, 29 anni fa, quindi in tempi completamente diversi. Sono rimasta sempre molto legata, io e la mia famiglia, all'ente con cui abbiamo adottato, che è il CHAI, che è l'ente primo a aver introdotto in Italia l'adozione internazionale, e quindi ho avuto contatto con tantissime famiglie adottive nel corso di questi anni. E lei riscontra questa difficoltà crescente? Io riscontro una difficoltà crescente che, di cui però non mi stupirei più di tanto, nel senso che comunque la situazione nel nostro paese, sappiamo qual è, reale o percepita, è di grande paura nel futuro, di difficoltà, si fanno meno figli, perché si dovrebbe adottare di più? Le tecniche di inseminazione artificiale, fecondazione eccetera sono... No, ma al di là di questo noi stiamo parlando di famiglie, di persone che hanno richiesto l'adozione e che non riescono a ottenerla. Adesso, al di là di un calo, se lei ce lo segnale, nelle richieste, quello fa parte del costume, della cultura, delle decisioni di ogni singola famiglia, sicuramente non c'entriamo. Invece quello che si sta registrando sempre di più è un problema legato alla burocratizzazione del processo, se vuole chiamarla così. Secondo me non è solo burocratizzazione del processo, perché il processo è sempre stato burocratizzato, diciamo, perché da sempre, cioè soprattutto da molti anni è obbligatorio il passaggio degli enti, bisogna fare, anche noi abbiamo fatto 29 anni fa mazzo di carte che abbiamo dovuto compilare. Non è questo il problema, il problema secondo me è nel fatto che oggi, e io ripeto, lo vedo per esperienza di confronto con tanti paesi con cui questo ente lavora, anche all'estero ci sono delle difficoltà. Oggi i bambini adottabili all'estero, cioè quindi nei paesi stranieri, i bambini che vengono messi in adozione sono principalmente, nella maggior parte dei casi, bambini cosiddetti special needs, cioè bambini con dei bisogni speciali, che possono essere bisogni sanitari tipo semplice o più grave, gruppi di fratelli, bambini di età più elevata. Questo spaventa molto le coppie. Allora, se oggi una coppia si presenta all'adozione, io non sto giudicando nessuno per la gran carità, dico la disponibilità, e anche anzi, sanno bene le persone a guardarsi dentro a capire qual è il livello a cui possono arrivare. Di è chiaro, altrimenti poi ci sono quei fenomeni molto dannosi per un bambino che esce dall'orfanatrofio, crede di aver trovato finalmente una famiglia e poi viene rispedito dopo qualche mese con grandi traumi. Sì. Senta, chiuda in 30 secondi Donatella, che dobbiamo veramente dare la parola a tante persone. Appunto, dicendo che la mia esperienza mi fa dire che famiglie, guardatevi dentro bene, fatevi aiutare prima, durante e dopo l'adozione. Grazie Donatella, questo è un invito che naturalmente sembra banale, in realtà è molto molto importante, perché si affronta un percorso che cambierà l'esistenza di tante persone con l'adozione. Marco Griffini, presidente di AIBI, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Noi stiamo parlando del crollo delle adozioni internazionali, cioè se in un anno sono crollate del 30% in Italia, cosa significa, cosa racconta questo numero? Ma il crollo in realtà è maggiore, perché purtroppo mancano i dati del 2014 e del 2015, perché la Commissione delle adozioni internazionali non li ha ancora elaborati. Abbiamo delle proiezioni che dimostrano che il crollo è tremendo, perché dal dato che le è dato 2825 c'è una proiezione del 2015 che non arriva a 1800, quindi c'è un crollo vertiginoso, pauroso, che ci riempie di rabbia, perché purtroppo i bambini abbandonati ce ne sono sempre stati e ce ne sono molti molti, ma ci sono anche le famiglie, perché se noi pensiamo che in Italia ci sono 5.300.000 coppie che non hanno figli, no, e che potrebbero avere un figlio, c'è da stupirsi come mai ogni anno aumenta sempre di più il dato dei minori abbandonati e il dato delle famiglie che potrebbero adottarli. Quello che a noi fa rabbia è che, guardando i dati, noi abbiamo visto che dal 2009 al 2011 noi abbiamo avuto sempre 4.000 adozioni all'anno, e poi ci siamo chiesti perché a un certo punto, dal novembre del 2012, questi dati sono cominciati a crollare. E che risposta vi siete dati? La risposta è semplice: quando c'è un motore che si inceppa, chiaramente la macchina si ferma, e il motore inceppato è la Commissione d'Adozione Internazionale, perché dal 2011, con l'avvento della presidenza Riccardi, purtroppo la Commissione ha smesso di produrre quella promozione, quell'attività, quell'attivismo che sotto gli anni famosi, dalla Bindi a Giovanardi, era l'Italia, era il gioiello per cui si andava all'estero, c'erano i tavoli, c'erano riunioni, cioè c'era tutta un'attività da parte del governo, da parte dello Stato, per promuovere l'adozione internazionale. Se pensate che in 3 anni l'Italia sì, non ma ha aperto scusi, un nuovo scusi paese, adesso Griffini, io la interrompo, lei lavora con queste cose tutti i giorni, a parte che non abbiamo il contraltare che è stato nominato per ribattere. Io non credo che su scelte così importanti, così intime, così personali, quindi poi una campagna dello Stato, diciamo così, possa incidere o meno. È un motore, se non l'apriamo a paesi nuovi, cioè se lei mi dice che si è persa la fiducia sul fatto che si possa arrivare ad adottare, la posso seguire. Sul motore che si inceppa, non so quanto incida, credo. Se non abbiamo paesi nuovi, no? Si chiude un paese, il Congo, no? Lei avete prima parlato del Congo, benissimo, il Congo è chiuso da 22 mesi. Ora sono 3 anni che l'Italia non dà l'autorizzazione ad un ente autorizzato di aprire un paese nuovo. Cioè è sempre stato così. Ci chiedono gli ascoltatori, lei è specializzato in adozioni internazionali, ma può spiegarlo brevemente a chi è nuovo a questo problema? Perché rivolgersi all'estero con tutti i bambini che vivono? Perché i bambini in Italia non sono adottabili, perché purtroppo il grande scandalo dell'Italia è che noi abbiamo la bellezza di 35.000 minori fuori famiglia, ma manca una banca dati, per cui noi non sappiamo in Italia quanti sono i bambini dichiarati adottabili. Dobbiamo fare riferimento ai singoli tribunali e i tribunali non collocano fra di loro, per cui sono anni che più di 1.000 adozioni all'anno se ne fanno all'anno. Questo è un problema notissimo che dà purtroppo la misura di come non si trattano i diritti dei bambini, e quello che avviene nell'adozione internazionale, cioè di fronte ad una grande disponibilità di famiglie che potrebbero avviarsi e vorrebbero, non si fa niente. Ma non è un problema di campagna, io non parlo di campagna, io parlo di motore. Se noi come enti autorizzati dobbiamo dipendere da un'autorità centrale, cioè noi non possiamo. La signora prima parlava di 29 anni fa. 29 anni fa noi eravamo liberi di andare in tutti i paesi del mondo per aprire l'adozione internazionale. Ora siamo obbligati, siamo costretti da un'autorità centrale che in questo momento sta lavorando contro le adozioni internazionali. Questo è il grosso problema. In più non sono adottabili i bambini che in Italia si trovano senza famiglia. Quindi lei sottolinea, c'è la disponibilità delle coppie ad accogliere un minore e tutti i canali sono bloccati. Grazie, perché è importantissimo questo tema che avete illustrato oggi ai nostri microfoni. Grazie a Marco Griffini, ora c'è il GR, poi ritorniamo in... Il segnale orario vi è offerto da... Gran Moravia, con l'etichetta multimediale, ti fa visitare la sua filiera ecosostenibile. Spunti di vista. I 1.000 aspetti dell'attualità. E sono le 9:06, ancora un saluto da Irene Zerbini. Oggi parliamo di un modello d'accoglienza che anche l'Olanda vorrebbe copiarci. Anzi, l'Olanda forse si è già mossa in quella direzione, si chiama microaccoglienza e praticamente ha coinvolto e sta coinvolgendo in Italia in questo momento 381 comuni. Si chiama SPRAR, è un sistema per cui gli enti locali fanno rete, mettono a disposizione alloggi per nuclei familiari titolari di protezione internazionale umanitaria e non solo, e quindi, per dirlo in termini non burocratici, è l'accoglienza nei piccoli paesi. Questo fa sì che 20.000 persone che sono accolte in questo momento con questo modello che sta generando grandi benefici, e per coloro che si sono spostati a vivere in alcuni di questi comuni che a volte sono proprio dei veri e propri borghi a rischio chiusura, diciamo così, a rischio spopolamento, e benefici per coloro che ci sono andati. È un modello che non sta generando grandi tensioni, anzi non si sa ancora, non si è mai venuti a conoscenza di una protesta in questo ambito e con questo modello, e forse questa è la ragione per cui se ne parla davvero poco. Secondo voi potrebbe funzionare? Ditecelo all'800 24 00 24, perché questo è il numero di telefono con il quale potete intervenire sempre in ogni momento a Spunti di Vista, oppure con un SMS al 349 238 6666. C'è anche chi, senza far parte del circuito, diciamo così, ufficiale, questa intuizione in qualche modo l'aveva già avuta, e noi salutiamo, ringraziamo per il suo tempo Paolo Erba. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Buongiorno. E lei è sindaco di Malegno, che è in provincia di Brescia, autore del libro La Valle Accogliente. Diciamo che ancora prima che fosse creato questo modello avete avuto in Val Camonica questo tipo di intuizione, è una specie di progetto pilota che ha fatto scuola, è stato anche molto replicato. Cioè, cos'è che avete fatto, cos'è successo? Ci racconti come avete gestito la notizia che da voi sarebbero arrivati nel 2011 quanti rifugiati? Erano circa 110 richiedenti asilo. E funzionò come sempre succede da chi fa amministrazione, c'è un problema e bisogna trovare una soluzione. All'epoca successe che a Monte Campione, che è un posto bellissimo per farci le vacanze, ma è a 1800 metri, arrivarono 110 richiedenti asilo in un albergo. E finché fu settembre la cosa era abbastanza tranquilla, avvicinandosi i tempi dell'inverno la cosa diventò preoccupante, perché poi la temperatura scende velocemente. E allora i sindaci di questa valle, che è una valle di 120 km per 100.000 abitanti e 42 comuni, hanno provato a ipotizzare un meccanismo che era quello di dire: se 110 persone a 1800 metri possono essere un problema sia da un punto di vista della salute di queste persone, sia dal punto di vista dell'ordine pubblico, queste 110 sparse 4-5 per comunità, per ognuno dei piccoli paesi che coinvolgono. Per esempio, Malegno quanti abitanti ha, tanto per darci un... Fa 2000 abitanti, è un piccolo comune. 2000 abitanti, quindi voi vi siete trovati insieme agli altri sindaci e avete deciso... Abbiamo fatto questo piccolo protocollo tra di noi, dicendo assieme alla comunità montana, provando a immaginare di fare questa microaccoglienza, un sistema semplice, però 4-5 persone per comune, di fatto riducono e di molto il problema di ordine pubblico, e soprattutto consente un'accoglienza, che è un'accoglienza anche di buon senso, fatta bene, insomma, nel miglior modo possibile. E come è andata? Cioè, per esempio, chiaramente in provincia di Brescia immagino che forze politiche come la Lega, per esempio, siano molto rappresentate. Non c'è stata ostilità all'idea inizialmente, almeno? Ma guardi, all'inizio no, tenga anche conto che la gente camuna è una gente di montagna, quindi se si deve dare da fare per essere solidale con chi ha di meno lo fa, e lo fa molto bene, molto volentieri. E quindi si è mosso anche un bel sistema, gli insegnanti in pensione che facevano il corso di italiano, persone che si davano da fare per far passare un po' il tempo libero. Poi si è riusciti a immaginare anche un percorso che poi ho visto è stato fatto anche in tanti altri comuni, cioè quello di chiedere a questi rifugiati di fare dei servizi per il comune, piccole pulizie delle strade. Gliela dico in dialetto camuno, funziona meglio, sì. Però gliela traduco in italiano. Quando è stato fatto questa idea di chiedere a questi ragazzi di poter fare un po' di lavori socialmente utili, ovviamente nel tempo in cui erano a disposizione del territorio, i commenti che c'erano nel bar, che però ti danno l'idea di quello che pensa la popolazione, erano: sono neri ma lavorano. Ma perché la Valle Camonica è una valle ancora con una logica, con un'etica del lavoro molto molto forte, quasi protestante, verrebbe da dire. E quindi la percezione dell'accoglienza è stata una percezione molto positiva nel primo periodo. Colpisce comunque il ma lavorano. Sì, senta, ma sindaco, lavorano. Secondo lei 4 anni dopo cosa resta di questa esperienza che avete fatto? Innanzitutto, erano profughi, erano in transito, sono ancora nei paesi della Val Camonica? Com'è andato questo progetto? Erano richiedenti asilo. In questi 4 anni ne sono passati per il paese di Malegno una ventina, perché poi ovviamente il tempo è quello definito dalla norma per poter attendere la risposta alla loro domanda. Di questi uno si è stanziato abbastanza strutturale sul nostro territorio, un po' per un suo carattere molto molto capace di entrare in relazione con le persone, un po' perché era riuscito a trovare, all'epoca c'era un po' meno la crisi economica, lavoro, quindi un part time da un artigiano, e quindi uno si è stanziato. Tanti altri si sono spostati, insomma. Ritengo che il meccanismo sia anche quello di inserirsi e poi provare a trovare fortuna in altri luoghi, credo. Cioè, sono andati al nord, alcuni hanno ottenuto ricongiungimento da altre nazioni, esatto. E altre situazioni personali. Una testimonianza importante. Guido Mussini, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Qui ci stiamo spostando, ci stiamo spostando. Dove si trova lei? Io in questo momento sono su a Ceresole Reale, nell'Alto Canavese, perché sono in ferie. Ho qualche giorno di ferie, quindi sono... E lei è presidente di una cooperativa sociale che appunto adotta questo modello. C'era stato, sì, abbiamo sentito nel resto d'Italia, un allarme tra la popolazione, tra gli amministratori comunali, per la forte concentrazione, soprattutto in alberghi e in situazioni ad alta tensione sociale. E invece voi avete un'esperienza tutta diversa da raccontare, cioè invece di concentrare i richiedenti asilo in un unico punto, li avete in qualche modo smistati in piccoli nuclei per evitare e la saturazione e anche per ottimizzare, immagino, l'inserimento nel tessuto dalle vostre parti. Com'è andata? È andata, direi, abbastanza bene, nel senso che noi abbiamo iniziato questo percorso 4 anni fa. Noi siamo una cooperativa che si occupa essenzialmente di altro, cioè di anziani. Siamo 400 posti dentro in case di riposo. Ci siamo occupati di disabilità e di minori in comunità. L'esperienza inizia con l'emergenza Africa, quella iniziale della Libia, e lì abbiamo sperimentato con piccoli numeri a Castellamonte, che è una piccola cittadina dell'Alto Canavese, circa una ventina di persone, questo 4 anni fa. E usando questo metodo, cioè quello dello SPRAR, noi non siamo ancora nel circuito dello SPRAR, perché lo SPRAR può venire solo con l'impegno, come ho sentito prima il sindaco, dei comuni direttamente, perché i progetti li fanno i comuni. Ma state pensando di entrarci in questo circuito? Sì, stiamo pensando di entrarci, perché questa esperienza che ha portato a dialogare prima di tutto con gli enti pubblici, perché se vogliamo fare anche questa accoglienza più grossa, no? Noi ci collochiamo in questo momento in una via di mezzo tra quello che è la prima accoglienza e quella che è lo SPRAR, nel senso che noi abbiamo adottato il concetto SPRAR. Avete adottato il concetto SPRAR e ancora non è ratificato, ma che risultati ha dato sul territorio? Cioè hanno tolto lavoro? C'è bassa attenzione, sì, con gli enti, perché si dialoga con i sindaci. Infatti in alcuni di questi comuni, per esempio quello di Borgiallo, sicuramente andremo a fare uno SPRAR appena si apriranno di nuovo i bandi, non solo lì, probabilmente anche nel comune di Cavagnolo. Sì, ma la popolazione come ha reagito a questo tipo di... Inizialmente ha reagito con timore, sospetto, paura, perché poi è quello che si sente in giro, no? E adesso invece tensioni, problematiche non ce ne sono state, perché queste unità non molto grandi, noi andiamo da unità abitative all'interno degli alloggi, quindi inserimento sul territorio, dai 3 persone, quindi se sono nuclei familiari o anche non nuclei familiari, al massimo tipo la realtà della casa parrocchiale di Borgiallo, dove sono 16 unità abitative, questo è il massimo, perché oltre questo si possono creare una serie di problemi. Abbiamo avuto già degli inserimenti. Quelli del 2011 su 24, una decina hanno trovato lavoro anche all'interno dell'Alta Valle. Uno sta facendo il falegname in una falegnameria dalle parti di Figlia, nell'Alto Canavese. 2 lavorano in un macellificio ad Ozegna. Un altro sta facendo il sarto, una ragazza. Scusi, è ma andata, nessuno dica, ha lamentato che questi tipi di lavori, queste occupazioni potessero andare a abitanti, a persone italiane? Non c'è stata la solita... No, perché per esempio, le faccio l'esempio di Ozegna, il macellificio, quello è un lavoro di tipo industriale, molto, molto brutto, chiamiamolo così, difficile, dove nessuno aveva, nonostante uno stipendio interessante, era interessato a fare questo tipo di lavoro, e quindi questi ragazzi sono andati a lavorare all'inizio come tirocinio. Il datore di lavoro si è trovato bene, ha visto che queste persone lavoravano come si deve e le ha poi assunte a tempo indeterminato. Grazie, allora, rimanga con noi perché ci stiamo spostando un po' in tutta Italia, ma soprattutto ci interessa anche sentire parlare meglio di questo progetto a cui i comuni possono aderire, che già coinvolge addirittura 456 esempi. Se ne parla pochissimo e non si capisce perché, visto che è un'integrazione che porta vantaggi a entrambe le parti coinvolte, perché non illustrare anche questo? Buongiorno e benvenuto al prefetto Morcone, buongiorno. Buongiorno a voi. Stiamo parlando, lei che è capo di Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, del modello della microaccoglienza, che lei conosce bene, non, si trova in Sardegna proprio per invitare alcuni dei comuni a entrare a far parte di questa rete. Ma quali sarebbero i vantaggi? Perché lo dovrebbero fare? I vantaggi sono grandi. Intanto il sindaco è protagonista del suo territorio e quindi il sindaco, in partnership eventualmente con qualche associazione o dipende naturalmente dall'organizzazione del comune, decide di essere protagonista e quindi di sistemare queste persone nelle condizioni migliori, limitando l'impatto sociale che possono avere per piccoli numeri, come stava dicendo il nostro interlocutore prima, e nelle condizioni migliori. Poi riceve delle risorse che sono anche significative, perché aiutano complessivamente il welfare comunale in un tempo in cui certamente non ci sono grandi trasferimenti dal centro. Un terzo elemento è che di fatto questo riduce le quote poi di persone che vengono mandate in quel territorio, perché nel momento in cui si fanno evidentemente i calcoli di quante persone mandare su alcuni territori, si tiene conto anche dei progetti SPRAR, quindi dei progetti comunali che sono stati aperti. Ma voglio dire, al di là adesso degli aspetti più squisitamente economico-finanziari, sì. Esatto, io credo che la cosa più importante è la capacità del progetto SPRAR di creare integrazione, quindi di far accettare queste persone, di inserire queste persone nel contesto sociale in maniera morbida, portando sviluppo, portando forza lavoro e aiuto, lo spiegava bene l'interlocutore prima, in realtà e anche in lavori spesso rifiutati dagli italiani, perché poi dimentichiamo molto spesso che a fronte di una percentuale di disoccupazione molto alta, soprattutto a livello giovanile, e tuttavia ci sono molti lavori che gli italiani comunque non fanno più, comunque non accettano, perché evidentemente ormai è cresciuta anche la qualità della vita degli italiani e fanno fatica, voglio dire, a fare dei passi indietro. Nonostante il 44,2% di disoccupazione giovanile. Il 44, lei non troverà nessuno che raccoglie i pomodori nonostante il 44% di disoccupazione. Purtroppo le ultime cronache ci raccontano che ci sono anche italiani anche in quel settore, oramai in linea di massima ha ragione. Senta, le sottopongo delle voci critiche dei nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo via SMS. Andrea da Pordenone dice: perché dobbiamo rassegnarci alla, la chiama così proprio, distruzione della nostra società italiana, questo mina il territorio, in pratica è l'unità degli italiani. Non mi pare affatto vero, cioè stiamo parlando comunque di un 5%, 6% di popolazione non italiana, e comunque poi naturalmente dipende dalle sensibilità di ciascuno di noi, io lo considero una ricchezza, un mix, voglio dire, l'arrivo di culture, la contaminazione con culture diverse dalla nostra, non la considero un limite, né vedo sinceramente alcun pericolo di mettere in discussione la nostra identità o la nostra storia o le nostre tradizioni. E alcuni ci ricordano che questo modello di integrazione era quello che utilizzavano i romani prima delle invasioni barbariche, quindi l'avremmo un po' nel DNA, questo è stato provato anche da studi. E lei parla di rilancio anche del territorio, c'è il problema dello spopolamento in tantissimi comuni italiani, addirittura ieri un sindaco di un borgo in provincia di Catanzaro ha messo il divieto di morire, perché altrimenti i 500 residenti attuali. Vede, questa è una ragione in più, esattamente una ragione in più. Evidentemente la desertificazione di alcuni territori può essere fermata, può essere, non dico invertita, ma perlomeno frenata dalla presenza di questi nuovi cittadini. questo aiuterebbe anche sul piano dei servizi ad evitare che ti chiudano la scuola elementare anziché che sparisce lo sportello delle poste. C'è un fenomeno molto molto evidente di desertificazione, ci sono molti istituti che ne hanno parlato, che invece possono ricevere una nuova vita e un rilancio proprio dall'arrivo di queste persone. Quanti sono stati i posti di accoglienza che con questo modello nel 2014 sono stati attivati su tutto il territorio italiano? Più o meno? Ma abbiamo 22.000 persone nei progetti SPRAR, 22.000 persone però a fronte, questo è negativo, di oltre 55-56.000 persone nelle strutture aperte temporaneamente per la pressione migratoria. Noi vorremmo e dobbiamo assolutamente ribaltare questo rapporto. Noi abbiamo bisogno di trasferire nei progetti messi a disposizione dei comuni e finanziati dallo Stato un numero molto più alto di persone e ridurre in maniera significativa invece le strutture di impresa sociale aperte temporaneamente. Perché comunque lo SPRAR, ripeto, oltre a rendere protagonista il sindaco, dà anche molta tranquillità. Non abbiamo sentito né di rivolte né di tensione con la popolazione, però se ne parla anche poco. La blocco un attimo, prefetto, perché mi stanno informando che il capogruppo della Lega Nord alla Camera dei Deputati, oggi nostro ospite, deve tra poco andare. Massimiliano Federiga, buongiorno, benvenuto in trasmissione. Buongiorno, grazie dell'invito. Lei cosa pensa di questo progetto? Conosciamo naturalmente le posizioni della Lega Nord con la facilità con cui in Italia arrivano quotidianamente centinaia di clandestini. Quando sente questo tipo di progettazione, di successo anche, qual è la sua reazione, il suo commento? Guardi, intanto io sono sconvolto da quando ho sentito dal prefetto Morcone. Cioè, quando si dice che il problema della mancanza di natalità in Italia non si supera con politiche della famiglia, cercando di dare una risposta quelle persone che non hanno un reddito, che non hanno un sostegno, che non riescono ad avere dei figli perché non hanno le possibilità economiche, non hanno il sostegno dello Stato. La soluzione non è agiamo in quella direzione, ma importiamo cittadini da altre persone, da altri paesi. A me sconvolge questa impostazione culturale che è drammatica in questo paese, perché vuol dire la sostituzione della nostra popolazione, se questa è l'impostazione. Cioè, se lo spopolamento non si risolve facendo politica per la famiglia, ma aprendo le porte del paese a un'immigrazione incontrollata, per me è una follia. In secondo luogo, io vivo in Friuli Venezia Giulia, dove la cosiddetta accoglienza diffusa l'ha messa in campo la regione. I risultati non sono stati per nulla buoni, oltretutto con un disagio notevole della popolazione. Ricordo che ci sono centinaia di migliaia di famiglie che non hanno una casa, che sono in graduatoria delle case popolari, da noi si chiamano ATER, e non hanno una risposta dal pubblico, e oggettivamente si sentono giustamente discriminate quando vedono che l'affitto, il vitto e l'alloggio viene pagato dal pubblico a chi arriva illegalmente sul territorio nazionale. Questa è la situazione attuale. Io non mi posso rassegnare al fatto, capisco che probabilmente a Morcone e al Ministero dell'Interno sono particolarmente felici, ma non mi posso rassegnare al fatto che nel nostro paese può entrare chiunque a prescindere in qualsiasi quantità. Lei ieri ha detto in un tweet che bisogna costruire un muro come in Ungheria. Era una provocazione? No, ho detto che un muro con le forze dell'ordine, ho detto in Ungheria fermano i confini. Noi dal Friuli Venezia Giulia, è una cosa di cui se ne parla poco e la ringrazio di farmene parlare, è una trasmissione importante come la vostra, però noi abbiamo centinaia di clandestini che continuano ad attraversare il confine del Friuli Venezia Giulia via terra. Non esiste solo Lampedusa, esiste anche il Friuli Venezia Giulia, e questi arrivano da altri paesi europei, perché attraversano altri paesi europei. Io mi domando, ma quindi perché... lei parlava di un muro fisico, di un muro di cosa parlava in questo tweet? Io parlavo di un muro di forze dell'ordine che presidiano i confini, esattamente come fa la Francia. Da noi adesso, in questo momento, il Ministero degli Interni ha spostato forze dell'ordine dal Friuli Venezia Giulia, che abbiamo proprio questo bisogno di presidiare i confini, per portarle dove? A Ventimiglia, per impedire che i clandestini escano dal nostro paese. Siamo arrivati a questa follia. Portano via forze dell'ordine che dovrebbero presidiare il territorio, perché è assurdo. Da noi arrivano dalla Slovenia e dall'Austria, che sono paesi dell'Unione Europea, ricordo, clandestini che passano tranquillamente. Ieri altri 79 a Trieste, passati dal confine triestino. E da noi cosa decide di fare il Ministero degli Interni? Di portare via forze dell'ordine, invece di rafforzare il confine per evitare di presidiare i confini, perché secondo lei queste 79 persone potrebbero essere una minaccia per la popolazione del Friuli? Ma minaccia o non minaccia, sta di fatto che non possiamo, se qualcuno pensa che possiamo portare tutte le popolazioni del terzo mondo in difficoltà nel nostro paese, è un matto oppure è un'impostazione prettamente ideologica, perché qualsiasi persona può capire che non è che se su una barca stanno 10 persone, uno ne mette 100, la barca si agalla, affondano tutte 110 le persone. Infatti proprio di affondamenti si parla in questi giorni, e questi 2000 morti nel Mediterraneo, secondo lei non devono invocare un principio di solidarietà, non parlano alle coscienze? Guardi, io le dico soltanto i dati, che prima dell'inizio dell'operazione Mare Nostrum, poi trasformata in Triton, che nella sostanza è la stessa cosa, cambiano soltanto le navi, che ci sono delle navi di altri paesi europei che fanno da taxi del mare verso l'Italia, prima dell'inizio di questa operazione i morti in mare erano di meno, perché non si incentivavano i viaggi della speranza, che dopo drammaticamente si trasformavano in viaggi della morte, e quindi il risultato è stato fallimentare su tutti i punti di vista. Maggiore immigrazione clandestina d'Italia, più morti nel mare Mediterraneo. Lasciamo la parola anche al prefetto per la replica, visto che lei l'ha chiamato in causa, Massimiliano Fedriga, capogruppo della Lega Nord. Ha sentito, prefetto? Non è, Ho sentito e conosco bene queste argomentazioni. In realtà l'onorevole Fedriga ha certamente ragione quando parla di questa, diciamo, trafilamento di persone attraverso la Slovenia e l'Austria. È un fenomeno di cui ci stiamo non solo occupando da tempo, ma per il quale invece, al contrario di quello che diceva l'onorevole Fedriga, abbiamo messo delle pattuglie al confine proprio per cercare di arginare. Naturalmente quello che succede al confine tra Friuli, Slovenia e Austria, è quello che succede a Calais tra Francia e Inghilterra, è quello che succede in altre situazioni. Le persone che arrivano in Italia da quegli paesi, Austria e Slovenia, ovviamente non hanno diritto a rimanere in Italia, e anche se fanno la domanda d'asilo verranno rimandati attraverso il meccanismo di Dublino nei paesi di primo ingresso, che sono appunto probabilmente Ungheria, Bulgaria molto spesso. Naturalmente però sono persone, e quindi come tutte le persone vanno trattate con civiltà, soprattutto in un paese come l'Italia. Detto questo, per il resto, francamente, torniamo al modello di assistenza, di microaccoglienza, sì, diciamo. Lui dice sostituzione della popolazione italiana. Quello volevo dire, francamente, sì. Mi sembra davvero molto, come dire, fantastico, insomma, immaginare una sostituzione di 60 milioni di persone con le percentuali di migranti che abbiamo. D'altra parte, la Germania, che no, finisce per essere nel bene e nel male il riferimento di un mondo che funziona, ha percentuali di richiedenti asilo molto più alte delle nostre, insomma. Faccio un esempio banalissimo, basta guardare la nazionale di calcio tedesca per capire come la Germania si avvalsa in maniera intelligente, trasformando magari una difficoltà, quale quella della migrazione, anche in un'opportunità. In un'opportunità, in una risorsa. Ed è questo il punto, cioè dovremmo essere capaci, con saggezza, con prudenza, con tutte naturalmente i limiti che vuole, senza alcun atteggiamento velleitario, però di trasformare questa difficoltà, che è un fatto oggettivo, insomma, al di là della retorica, dei muri e dei blocchi navali, trasformare questa difficoltà del contesto internazionale, dove ci sono scenari di guerra dovunque, dove mai nel Mediterraneo c'è stata una situazione così esplosiva, in, non dico un'opportunità, ma certamente in un evento gestito in maniera intelligente dal nostro paese. Onorevole Fedriga, e poi naturalmente la lascio andare, lei sarebbe disposto, visto che alcuni dei comuni vorrebbero invitarla a toccare con mano, a vedere queste realtà generate dalla microaccoglienza, ad andare, vedere, constatare e semmai anche a cambiare idea? Ma guardi, io sono andato dappertutto e vado ovviamente dove mi chiamano più che volentieri. Ho visitato molti casi di questo tipo, tra cui per esempio anche alloggi gestiti dalla Caritas in Friuli Venezia Giulia, dove in provincia di Udine uno di questi alloggi si è trasformato, dove alloggiavano 4 persone, quindi assolutamente microaccoglienza, dove alloggiavano 4 persone, si è trasformato in un bel centro di spaccio, dove è dovuta intervenire la polizia perché l'hanno deciso di utilizzare come centro di spaccio per vendere droga. Ma che bello, non esistono regole in questo momento. Io domando al prefetto Morcone, visto che evidentemente il ministero degli interni ritiene che per la sopravvivenza di una persona, per il visto, l'alloggio, i beni di prima necessità, servono all'incirca 1.300 euro al mese, perché sono queste che vengono date alle cooperative o alle associazioni che le gestiscono, compresi 2,5 euro al giorno di money transfer. Sono 10.950 euro all'anno, diciamo, se vogliamo fare il conto. Guardi, sono 1.300 euro al mese, va compresa. E io dico, allora sì, perché non vengono date la stessa cifra anche ai nostri disabili che prendono un assegno di 280 euro al mese? Per loro sopravvivere vivono d'aria, per loro il mangiare costa di meno, per loro non hanno bisogno di vestiti. Quindi lei pensa, mi scusi, questo è il limite minimo di sopravvivenza. Mi scusi, onorevole, ci sono delle cifre ben precise e partiamo dai numeri. E lei pensa che una volta risolto il problema, sì, 30 euro pro die, diciamo, 10.950 euro arriva per all'anno. Lei pensa che una volta risolto il problema, nel senso chiusi, costruito il muro di forza dell'ordine, e aumenteranno anche le pensioni degli invalidi? Cioè lei crede che questa è la soluzione di tutti i problemi italiani? Cioè sono i migranti che creano la disoccupazione e tutti i problemi di costi che abbiamo nella pubblica amministrazione, nella sanità, adesso abbiamo i tagli. Cioè secondo lei veramente questo basterebbe? Perché basterebbe parlare con cifre alla mano. In Lombardia si spendono 6,5 euro a testa per ogni cittadino lombardo per i 6.000 profughi che sono stati accolti in questa regione. Si spendono in Italia, si accolgono 8 volte meno profughi della Germania, della Francia, della Svezia. E mi sembra che additare sempre questo come il problema della nostra economia potrebbe essere non conforme alla verità. Cioè si potrebbe parlare tranquillamente senza pensare che poi ogni cifra che viene spesa in questa direzione, anche se vuole perché c'è troppo buonismo, perché il Ministero dell'Interno sta agevolando loro piuttosto che gli invalidi, magari contribuisca a rialzare i toni e a non capire bene, a inquadrare bene quello che è la situazione anche dal punto di vista economico. Fedriga, concluda brevemente. Sì, mi scusi, ma chi ha detto questo? Nessuno della Lega ha detto che tutto il problema della disoccupazione economica. Beh, lei ha appena detto che avremmo gli invalidi civili che hanno più soldi, per esempio. Lei non ha detto che avremmo questo. Non ho detto questo, mi scusi. Io ho detto che è ingiusto che se il Ministero dell'Interno riconosce per vivere 1.300 euro al mese per un clandestino, non vedo perché invece lo Stato riconosce 280 euro al mese per un disabile. Dico, se quella è la soglia minima per vivere, bisogna riconoscere anche al disabile 1.300 euro al mese, non 280 euro al mese. Questo ho detto. I problemi economici questo governo li sta affrontando in modo drammatico, dalla questione del lavoro, abbiamo fatto la proposta della flat tax, dell'impresa, ma sono altri discorsi. Dico soltanto che in un momento di difficoltà economica spendere per l'accoglienza in generale, tra costi diretti e indiretti, perché dopo ci sono i costi sanitari, i costi della sicurezza, i costi nelle carceri ed altro, 3 miliardi di euro all'anno, perché queste sono le cifre fatte oltretutto da importanti inchieste giornalistiche, fortunatamente, perché il Ministero non ci ha ancora dato un costo complessivo tra costi diretti e indiretti. E tra poco lo chiederemo anche al prefetto, il costo totale. Lei può rimanere con noi, Fedrigo, deve andare? Io mi scuso, però adesso devo iniziare, ho un altro impegno fra 4 minuti, quindi mi scuso. Tra 4 minuti. Devo andare. Grazie, grazie. E capogruppo Lega Nord alla Camera dei Deputati ha espresso la sua visione. Tra pochissimo continueremo a dibattere con voi, con i nostri ospiti. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E continuiamo con i nostri punti di vista. Stiamo parlando oggi di un'accoglienza della rete, cioè l'USPRAR, microaccoglienza diffusa sul territorio. Sono 22.000 le persone coinvolte. I benefici sono tanti, ovviamente per chi viene accolto, ma anche per le popolazioni dei comuni coinvolti. Sono sempre di più, raddoppiano più o meno ogni anno coloro che chiedono di farne parte. Ma chi paga questo tipo di accoglienza? Chiedeva anche l'onorevole della Lega Nord, a cui abbiamo dato la parola, il prefetto Morcone. Eccomi, mi faccio fare una brevissima battuta. Se avessi saputo o pensato tanti anni fa, quando ho fatto il mio concorso, che il Ministero dell'Interno era buonista, sinceramente non lo so, la trovo singolare come idea che il Ministero dell'Interno di per sé sia buonista. Comunque, detto questo, noi abbiamo speso l'anno scorso 635 milioni di euro, Quest'anno forse spenderemo qualcosa in più perché ovviamente sono cresciute le presenze. Vorrei solamente però precisare che, numero uno, queste persone hanno un'accoglienza per un anno, non hanno un'accoglienza per la vita, cioè dovranno camminare con le proprie gambe, dovranno inserirsi nel nostro contesto, quelli che naturalmente hanno diritto a rimanere, quindi i cosiddetti rifugiati. Secondo, che lui parlava di clandestini, dice che molti di questi in realtà sono clandestini. Vabbè, certo, li chiamano clandestini, ma o hanno diritto a rimanere, sono rifugiati, e questo è un principio costituzionale ed è una regola civile del nostro paese, oppure se non hanno diritto a rimanere saranno rimpatriati nei tempi possibili, in relazione alle condizioni anche possibili, ma saranno rimpatriati. La terza questione, vorrei solamente richiamare l'attenzione degli amici dell'onorevole Fedriga, che tutti gli studi dimostrano che gli immigrati presenti regolarmente sul nostro territorio, cioè che hanno avuto un permesso di soggiorno e che lavorano da noi, contribuiscono al nostro PIL per 4 miliardi, se ricordo bene, in più rispetto a quanto lo Stato spende per loro. Sono i dati dell'Economist. Aiutano il nostro sviluppo economico, aiutano le nostre finanze. Quindi francamente del tutto inventato, che gravano totalmente su di noi. L'Italia ha ricevuto dall'Unione Europea nel periodo 2007-2013 478 milioni di euro, cioè va anche segnalato questo, il finanziamento che arriva in Italia per questo tipo di programmi. Mi faccio dire che sono in grado di esibire, quando chiunque lo chieda, una lettera di congratulazioni della Commissione che è arrivata 3 giorni fa, col quale ci diceva che eravamo stati bravi a spendere i soldi mandati dalla Commissione europea e che anzi dovevamo continuare così, e ci hanno appena approvato il nuovo programma 2014-2020. Quindi anche sull'investimento dei fondi europei ai fini di integrazione, ai fini di accoglienza, francamente non abbiamo niente di cui doverci scusare. Ma non capisco perché, quando si parla di questo tipo di tematiche, le posizioni devono sempre essere ideologiche. Quando lei va sul territorio in mezzo ai comuni che hanno accolto. Ma perché se lei crea la paura nelle persone, se lei crea un contesto nel quale avremmo dovuto avere tutti la tubercolosi, e lo sanno tutti che la tubercolosi, almeno tutti quelli attrezzati culturalmente, che la tubercolosi viene dalla Romania e non viene dall'Africa. Se dovevamo essere tutti sterminati dall'Ebola e nessuno è stato coinvolto dall'Ebola, se facciamo passare la scabbia, che è una banale infezione della pelle, probabilmente che ancora fino a qualche anno fa era anche nelle nostre campagne, che si cura in un giorno, come uno dei grandi pericoli nazionali, e poi si attiva soprattutto su chi è più debole, anche culturalmente, il pensionato, la persona anziana, quello che si sente naturalmente in una condizione di fragilità, una paura e un pregiudizio che francamente sono assolutamente inventati. Sì, ma lei, quando va in giro sul territorio, sono sempre di più i comuni coinvolti, avrà incontrato delle persone che inizialmente erano contrarie e poi, sulla base semplicemente di ciò che si vive e dell'esperienza, quindi non del pregiudizio ideologico, magari cambiano idea? Le è successo? Io ci provo tutti i giorni, in verità. Sono qua a Cagliari stamattina esattamente per questo, come sono stato in Veneto l'altro giorno, ma molto spesso le devo dire, insomma, provo una politica diciamo che invece di tenersi sui grandi temi, che sono i temi veri, cioè quello di un contesto internazionale, di un Mediterraneo in fiamme, che costituisce davvero un'angoscia e un pericolo per i nostri figli, per la situazione che si sta generando, trovo diciamo una politica che si occupa dei pochi voti in più e in meno alle prossime elezioni comunali. Grazie per essere stato con noi, prefetto Morcone. Noi naturalmente vogliamo sentire anche la vostra opinione. 800 24 00 24. E siamo partiti dai numeri, le cifre dei rifugiati riconosciuti come profughi che sono stabilmente ospitati nei paesi europei. In Italia parlano di 70.000 persone, e quindi c'è un rifugiato, diciamola così, se dobbiamo dividerlo, ogni 850 abitanti. abitanti, questo è sei volte meno della Germania e 8 volte meno della Svezia. Le cifre sono state date dall'Agenzia ONU per i rifugiati e dalla comunità cristiana di base di Busto Arsizio. Ci sono le realtà poi demografiche che ancora una volta si possono raccontare tranquillamente con numeri, senza bisogno di alzare i toni e creare scontri, e parlano di un paese che ha un problema demografico rilevante, che da qui a breve si rifletterà sul nostro sistema previdenziale. Mancheranno giovani, mancheranno ragazzi che avranno la possibilità di mantenere in vita anche gli ultra 65enne, che invece cresceranno sempre di più. Vediamo chi ha preso la linea in questo momento. Mi sembra da Latina la telefonata. Pronto? Pronto, signora, buongiorno. Buongiorno. Sono signor Terranova. Sì, mi dica. Senta, secondo me questo è un tipo di idea molto molto intelligente, perché riporterebbe città morenti a rifiorire, anche perché senza energie giovani non si potrebbe creare quel circolo virtuoso, che ne so, uno magari si apre un barbiere, poi magari un altro si inventa, diventa, che so, parrucchiere, insomma si può creare un discorso di economia. Ma tutto questo è aperto anche alle giovani coppie italiane? Chiaramente sì, ma molto di quello che succede. Abbiamo fatto un esempio prima e voglio correggere anche la pronuncia: è Sadale, un villaggio dell'entroterra sardo in provincia di Cagliari. Senta cosa succede, carissimo Roberto. Praticamente in questo villaggio, che consta di 900 abitanti, ci sono buoni spesa di 200 euro al mese per 2 anni destinati alle famiglie che scelgono di spostare la propria residenza lì. E nonostante questo, negli ultimi anni, dal 2010 ad oggi, loro sono contenti, ma ci sono andati solo 30 persone in più. Cioè è molto difficile che si trovino coppie giovani disposte ad andare a vivere in borghi magari stupendi, magari molto suggestivi, ma un pochino fuori dalle rotte, diciamo così, che portano in città, che portano a situazioni anche un po' più eccitanti dal punto di vista della vita. Capisce, Roberto, perché c'è il problema dello spopolamento. Ci sono comuni con 500 abitanti e ogni anno questi residenti, questi numeri già esigui, si erodono sempre di più. Grazie per questa sua sollecitazione. Torniamo tra poco perché dobbiamo andare a controllare, si apre un weekend a Bollino Nero, come va la circolazione, il traffico. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Allora, ci sono stati musi lunghi, c'è stato filo spinato, sembra proprio di no in questi comuni, sono 375 in 30 province diverse d'Italia, che hanno aderito al progetto SPRAR. Non se ne parla, ma la microaccoglienza, questi microprogetti, questo microinserimento sembra stia dando risultati soddisfacenti anche per la popolazione. Abbiamo sentito ovviamente il punto di vista anche di chi è preoccupato, impersonato dal capogruppo della Lega Nord che è stato nostro ospite. Andiamo a vedere cosa succede anche nel sud, perché finora ci siamo collegato solo con realtà piemontesi, siamo stati poi in Lombardia e in Sardegna. Invece in Sicilia, buongiorno a Calogero Santoro, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per avermi invitato. E lei fa parte o rappresenta una cooperativa di quelle tanto... No. Io sono il presidente dell'associazione I Girasoli, sì, che è un ente gestore di diversi progetti SPRAR in Sicilia, e dal 2006 ci occupiamo di accoglienza di rifugiati e non di clandestini, come li chiamava l'onorevole della Lega. Abbiamo iniziato con i minori stranieri non accompagnati a Mazzarino, una cittadina di circa 10.000 abitanti. In provincia di Caltanissetta. Va bene. Dopo l'esperienza fatta con i minori, che ha dato dei risultati eccellenti sia dal punto di vista dell'interazione con la popolazione, sia dal punto di vista dell'integrazione anche lavorativa di questi ragazzi, nello scorso bando dello SPRAR del triennio 2014-2016, parlando con l'amministrazione del comune di Sutera, che è uno dei più bei borghi d'Italia con circa 700 persone, abitanti, abbiamo pensato di fare un progetto SPRAR a Sutera, un progetto SPRAR per famiglie rifugiati e richiedenti asilo. Questa di Sutera è un'esperienza che ci ha praticamente spiazzato e anche sorpreso positivamente, nel senso che le famiglie, in questo momento abbiamo 6 famiglie e in totale 30 persone, praticamente hanno ridato linfa vitale, fatto ringiovanire, rivivacizzare e ripopolare e anche dato una linfa economica e di servizi alla cittadina, al borgo di Sutera, non indifferente. La cittadina è un po' l'esatto contrario come filosofia di quello dei centri dove i migranti vengono ammassati a centinaia. Esattamente, parte proprio da questa logica. Io faccio parte del coordinamento regionale dello SPRAR, in cui si è parlato diverse volte sia con il direttore e con la direttrice del servizio centrale, la dottoressa Di Capo, sia con gli altri rappresentanti e con i prefetti, e saluta anche il prefetto Morcone che in questa materia è molto sensibile, in cui praticamente si è scelto di fare la microaccoglienza. Poi ma questi ragazzi, ci scrivono gli ascoltatori che sono molto scettici, sì, su questo tema, stanno tutto il giorno a far nulla, lavorano, si rendono disponibili, cosa fanno le persone? Non sto parlando chiaramente di bambini o minorenni, che voi seguite anche quelli, ma cosa fanno queste persone, queste famiglie inserite a Sutera? Allora, i bambini vanno a scuola, o a scuola elementare o a scuola materna, perché sono tutti bambini minori, e quindi grazie a questo si è riaperta un'altra classe elementare lì a Sutera, che rischiava di chiudere praticamente la scuola a Sutera, in quanto non c'erano, sì, più bambini. I genitori fanno a loro volta il corso di lingua italiana fatto gestito dalla nostra associazione, ma tenuto da un insegnante in pensione, da un insegnante italiano in pensione, imparano la lingua italiana, dopodiché abbiamo cominciato a utilizzare lo strumento dei project work. I project work sono delle esperienze lavorative in delle aziende. Aziende che possono essere attivate anche in aziende piccole, di piccole artigiane, quindi c'è chi lo fa dal barbiere, c'è chi lo fa dal falegname, nelle piccole realtà che ci sono a Sutera e nei paesi vicini. E c'è stata collaborazione da parte degli artigiani? Da parte delle persone, degli artigiani, c'è stata una grande collaborazione, anche perché questi ragazzi, a queste persone, ai genitori, viene dato un rimborso spese tipo da parte del progetto SPRA stesso. Quindi loro fanno il corso di italiano, si fanno questo project work e fanno delle attività insieme alla popolazione. Perché? Perché la forza di questo progetto è stato che noi abbiamo fatto una scelta come associazione insieme all'amministrazione, abbiamo creato degli operatori grezzi. Che cosa significa? Praticamente abbiamo fatto una sorta di patto di adozione tra famiglie, quindi ogni famiglia di Sutera, una famiglia di Sutera ha adottato una famiglia di rifugiati. Molto chiaro, grazie per questa fotografia, ci è arrivata dalla Sicilia. Chiuderei con Guido Mussini, che ci ha raccontato invece l'esperienza piemontese. A un minuto, Mussini, per fare un bilancio di quanto raccontato oggi, visto che non siete soli, siete in tanti a adottare il modello di microaccoglienza, anche se se ne parla pochissimo. Ma io direi che questo è il modello vincente, anche nella fase nostra. Il collega che ha parlato prima della Sicilia, lui agisce già sugli SPRAR. Noi arriveremo a fare gli SPRAR, anche se ci stiamo muovendo esattamente nello stesso modo, anche se non lo siamo ancora. Quindi siamo, diciamo, l'anello della catena tra la prima accoglienza, i grossi centri, e quello finale che è lo SPRAR. Ma questo ha rinvigorito anche l'economia del territorio? Sì. Per certi versi sì, perché vi faccio un esempio. Noi, per gestire i profughi che sono arrivati, abbiamo assunto, parlo di persone laureate, quindi mediatori culturali e non solo, con una conoscenza di almeno 2 lingue, inglese e francese come minimo, 12 persone. E ci sono ascoltatori che dicono che il sistema delle cooperative in realtà è un sistema poco trasparente. No, direi proprio di no, perché perlomeno per quanto mi riguarda la provincia di Torino, la prefettura ha fatto dei bandi di gara in cui si doveva presentare un progetto. In questo progetto, oltre al prezzo, che non sono i 40 euro, i 50 euro e quanto, noi ci stiamo a 32 euro al giorno per persona, per capirsi, e si devono fare alcune cose, e sono le stesse cose, perché questo ha voluto la prefettura di Torino da mettere nel progetto, che si fanno negli SPRAR. Ecco perché la scelta che abbiamo fatto è quella vincente. Se lei pensa che... Ed è diversa dagli alberghi che si propongono per semplicemente, come dire, far cassa senza alcun progetto. Perché l'albergo diventa di fatto un'unità distaccata della prima accoglienza, per certi versi, qualcosina di più. Però l'inserimento sul territorio, avere il dialogo, perché è importante avere il dialogo con le amministrazioni comunali per avere il consenso, perché insieme con loro si possono far accogliere alle persone i diversi, mi consenta il termine, tra virgolette, e quindi si vanno a superare una serie di paure. Questo non vuol dire che non ci sono problemi, problemi ce ne sono, ce ne sono tutti. Di tipo? Che tipo? E beh, perché queste persone comunque hanno delle problematiche, espongono in maniere diverse anche i loro problemi, però vanno seguiti. Abbiamo purtroppo la parte burocratica, lo diceva bene prima il prefetto, ci va tra la prima accoglienza che arrivano, avere i documenti per capire se possono rimanere come profughi, come accolti di asilo. Politico. Tempi troppo lunghi, abbiamo capito. Comunque ringraziamo anche Guido Mussini. Abbiamo scattato diverse fotografie in giro per l'Italia di questo progetto di cui non si parla mai. Ieri Giorgio De Luca in redazione, Silvi Boccaletti, Massimiliano Lollis, Barbara Bianchi, che si è unita oggi, hanno partecipato con me alla scoperta di questa cosa, di cui è difficile anche trovare dati e situazioni, perché non è molto pubblicizzata, ma sembra funzioni moltissimo. Abbiamo scattato questa foto per capire se è veramente il modello intelligente da seguire. Da Irene Zerbini, appuntamento a lunedì mattina con Spunti di Vista. Un saluto anche a Peter Bescapè in regia.